e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, eccomi qua, sono felice di essere tornata qui con voi, ho scorrazzato un po' per tutti lavorato i tetti. Ieri ti vedo un po' stanca infatti, sì, però sai non che... mi hai portato neanche una calza con qualche cosina dentro, però adesso arriva il dottor Noce, magari me le porta lui un po' di noci e nocciole di cui ho parlato ieri. Speriamo, allora abbiamo festeggiato l'Epifania, che se è vero che tutte le feste le porta via, è vero anche che ci lascia qualche ricordino che alle volte non è neppure tantoino. Pranzi, abbuffate natalizie non si traducono solo in chili di troppo, lo sappiamo bene, ma anche in senso di pesantezza, pancia gonfia, tanto che digeriamo male, avvertiamo una sorta di dolenzia sul lato destro della pancia, là, eccolo lì, dove sappiamo vive e lavora la ghiandola più grande del nostro corpo, il fegato, la centralina metabolica del nostro corpo, l'organo che ci depura dalle tossine e metabolizza i farmaci, un organo che è costantemente minacciato e anche un po' maltrattato dal nostro stile di vita. E quando parliamo di fegato, ci viene subito in mente la parola depurazione, perché tra le tante funzioni che svolge il fegato c'è proprio quella, che, come abbiamo anticipato, di filtro delle sostanze tossiche. Allora la parola d'ordine della parte di denari sarà proprio depurazione, depuriamoci. Parte di cuore magari? Sì, ho detto di denari. Di denari, perché non, è meglio non depurarci. Guarda, i risparmiatori di cui parlo oggi, poveretti, sono stati depurati in maniera un po' traumatica. Ecco, allora depuriamoci dalla parte del cuore, mentre non possiamo dire intossichiamoci di denari, ma insomma, ecco, non ce ne sono mai abbastanza. Lo troviamo lo stesso. Voi che cosa state facendo? Insomma, vi state alleggerendo la vostra dieta? Pensate magari di saltare qualche pasto? Andate di tisana? Bevete più acqua? Qua invece evitate magari di mangiare la sera, vi concedete solamente un brodino? 800 24 00 24, ne parleremo tra poco con il dottor Speciani, che Deborah già è già arrivato con la sua calza di carta, è arrivato con una di gran intanto contenuto. Lo salutiamo, buongiorno. Ma buongiorno, buon anno a tutti, buon anno. Abbiamo, le noci non le ha portate, però ha portato i suoi libri. Esatto, che vanno sempre a ruba, direi, letteralmente. Come il pane, come si dice. Infatti, integrale però, naturalmente. Allora, oggi 7 gennaio, giorno di ripresa, si torna al lavoro, si torna a scuola naturalmente, si torna in coppia a Cuore e Denari. Anche noi nella seconda parte di Cuore e Denari torniamo a sederci sui banchi della nostra scuola di risparmio, quindi ripristiniamo la nostra rubrica del giovedì, Investire Informati. Riprendiamo i nostri approfondimenti sui temi del risparmio e degli investimenti. Oggi avevamo una doppia scelta, o occuparci di queste borse cinesi che stanno crollando, trascinando con loro tutto il resto del mondo, dall'Europa agli Stati Uniti. Abbiamo deciso invece di dedicarci non a questo argomento, su cui faremo un costante punto della situazione per tutta la giornata, ma di tornare invece a dedicarci alla situazione degli azionisti e degli obbligazionisti delle vecchie Banca Etruria, Banca Marche, Cari Chieti e Cari Ferrara. Per ora il 2015 non lascia certo un buon ricordo, vedremo in che modo il 2016 potrà essere portatore forse di un parziale risarcimento. Domani intanto questi risparmiatori incontreranno il presidente delle nuove quattro banche, Roberto Nicastro, quindi c'è tanta carne al fuoco. A tra poco con il tema di denari. Eh sì, oggi vogliamo proprio farvi stare bene, direi che per aiutarvi è bene procedere per gradi, l'abbiamo già anticipato qui in studio, è tornato a trovarci il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano, buongiorno e bentornato, prima puntata del 2016. Bella, siete tutte vispe, vi vedo. Vede? Abbiamo cancellato anche la fuliggine. Non abbiamo tanto esagerato con il cibo. Allora, dottor Speciani, se c'è una causa che di sicuro ci fa sentire affaticati, appesantiti in questo periodo dell'anno, ha un solo nome, quella causa sono le abbuffate del periodo natalizio, no? E ci sta anche quello, perché il cibo è anche piacere, convivialità, relazione. Ma assolutamente, assolutamente. Abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto benissimo, tra l'altro secondo me andando anche in accordo con quelle che sono le condizioni evoluzionistiche. Cioè una delle cose che mi viene in mente quando si parla di queste abbuffate è che nei tempi passati tutto quello che c'era andava finito, perché la capacità di poter conservare era veramente scarsa. Quindi sì, si faceva man bassa, come dire, no? Anzi pancia bassa, come dire. L'elemento era critico. E c'è una profonda differenza oggi se pensiamo a quelle che sono abbuffati solo di dolci e oppure di un'abbondanza ben miscelata. Io sicuramente ho qualche un buco di cintura in più, ho gli enumerati, eccetera, però ho corso, ho fatto, sono riuscito a dormire, a fare attività fisica e a mangiare di tutto, quindi non, solo i dolci, bello. Per cui so, perché questa è un'esperienza che ho nel corso degli anni, che questa cosa si risolve in breve, insomma, cioè non è, purtroppo invece quando si mangiano, si fanno abbuffate veramente solo di dolci, poi si pagano tosta. Noi non vorremmo iniziare l'anno, la prima puntata con del dottor Speciani, dicendo mettiamoci a dieta, vogliamo iniziare l'anno a dire che cosa posso fare nel 2016 per stare bene, partendo proprio dall'alimentazione. Poi ci sono tante altre cose che aumentano il nostro benessere, dottor Speciani, l'attività fisica, ne parleremo, possiamo anche decidere, no, di scegliere di frequentare un corso di yoga, possiamo nel corso dell'anno ci occuperemo come sempre di voi. Oggi quindi rilassiamoci, cerchiamo di recuperare quel benessere che qualche pranzo in più, qualche aperitivo, magari un po' di pigrizia hanno in qualche modo compromesso. Direi questo, che in tutte le situazioni in cui c'è una opposizione profonda, cioè uno dice ho mangiato tanto, adesso stacco tutto, smetto, digiuno, eccetera, queste cose portano a poco. C'è una occasione ottima che è di sfruttare le cose che abbiamo, la frutta secca, che giustamente non ho portato le noci, ieri me ne sono un po' occupata anche in sua assenza, dottor Speciani, anche senza Nicolette, insomma. Spero di aver portato degnamente il vostro nome. Ma non abbiamo dubbi, siamo in ottima mani. Siamo certi. E quindi la possibilità, ad esempio, di iniziare alcuni spunti mangiando in modo giusto, adeguato, che ci consentano non solo di rimettere a posto questa, ripeto, anche evoluzionisticamente ci sta quasi bene, questo ingrassamento di fine anno, dove adesso inizia la luce ad allungarsi, che è una cosa fantastica. È vero, io ho già notato, sì, qualche minuto già le giornate lo hanno acchiappato. E per chi va a correre al mattino presto, come me, è una gioia, perché per ora correvo solo al buio e inizio a vedere qualche barlumino di alba che comincia. Fantastico. Allora, 800 24 00 24, non perdete le buone abitudini, iniziate a contattare il nostro numero verde, a mettervi quindi in contatto con il dottor Speciani. Come sono andate queste vacanze? Siete saliti sulla bilancia, più 2, più 3, più 4 kg? Non ci occupiamo di questo oggi, ma vogliamo iniziare proprio l'anno cercando di raccogliere tutte le informazioni utili per fare questa doppia operazione, depurarci dalle tossine, e noi chiamiamo in causa il fegato, l'organo più maltrattato, bistrattato, che in questi periodi lavora molto e paga le spese di uno stile di vita un po' non adeguato, che non gli piace tanto, e nello stesso tempo cerchiamo di raccogliere tutte le informazioni utili per fare delle iniezioni di benessere alla nostra vita, partendo proprio dall'alimentazione. Quindi partiamo dalla parola chiave depurazione, dottor Speciani. Abbiamo detto che è la centralina metabolica del nostro corpo, il fegato, depura, ci depura dalle tossine, ci metabolizza anche i farmaci, quindi è un grande lavoratore, instancabile. Amico profondo, se posso dire, anzi ci aiuta e ci consente soprattutto di poter attivare anche i processi, da un lato di accumulo, perché dobbiamo pensare che questa cosa dell'aver messo su qualche chilo non è così lontana, nel senso che è utile. L'organismo fin dal paleolitico è abituato che quando finalmente trova abbondanza cosa dice? La butta via? No, qui ci aiuta, non parliamo di cuore, parliamo di denari. Giustamente Deborah potrebbe dire come scorta, quindi come esatto. Diciamo qualcosa per andare ad attecchire nei momenti di difficoltà, come risparmio. Fa un investimento adeguato e mette nei posti dove può essere utilizzato quando serve, quindi purtroppo nel tessuto grasso. La cosa fondamentale è che questa cosa possa avvenire non solo mettendo grasso, e qui è importante poi lo stile alimentare, ma anche un po' di muscolo. In questo modo l'organismo è equilibrato, è come se uno diventasse un po' più, io le dico, piacevolmente formoso a cavallo dell'inverno, no? E lo vediamo con naturalezza, noi vediamo i cavalli, per dire, nei paddock, sono, durante l'inverno sono pelosi, sono cicciottini, eccetera, perché poi improvvisamente quando arriva la primavera, nel giro di pochi istanti il pelo si asciugano tutti e tornano. supporto. Se seguissimo un po' di più questo tipo di indicazione, potremmo essere a posto. E loro mangiano fibra, questo è un tema forte da allora, toccare per facciamo il dopo. Un rapido sommario dei temi di cui parleremo nel corso della nostra puntata. Abbiamo detto fegato. Attenzione, sappiamo che è una ghiandola molto importante, è la ghiandola più grande del nostro corpo, filtra, un organo, no, importante perché ti depura anche dalle tossine, filtra, noi lo affatichiamo con uno stile alimentare che non gli piace molto, ricco di, no, di grassi, di calorie, di cibi non raffinati. Esatto. Mettiamo poi quindi fegato, mettiamo disintossicazione, fibre e mettiamo anche i liquidi, dottor Speciani. Liquidi li davo per scontati. Allora, cioè, iniziamo. Acqua in abbondanza. Acqua in abbondanza. Sono le 10:40. Quanta acqua avete bevuto da quando siete svegli? 800 24 00 24. Dottor Speciani, perché è importante sottolineare, soprattutto e non solo in estate, perché l'acqua viene fuori solamente in estate quando, no, ci sentiamo. Beh, ecco, mentre noi diciamo sempre che bisogna assicurarci la giusta idratazione estate e inverno. Se posso dire le più frequenti condizioni in cui trovo persone con, io chiamo gli intasamenti, quindi con fenomeni di rinella, di sabbioline renale, di difficoltà di digestione colecistica, eccetera, perché mancano i liquidi per far funzionare tutti questi organi di drenaggio, si chiamano, che possono quindi andare favorire la fuoriuscita dei liquidi. È un tema forte questo, perché abbiamo i riscaldamenti, ad esempio, che tendono ad asciugare in maniera pazza. Chiunque, ad esempio, va in aereo e c'è l'aria condizionata, sa che esce, che ha la pelle secca immediatamente. Sì. La stessa cosa avviene con il riscaldamento ambientale, per cui tema importante, per cui le persone non hanno sete perché la temperatura non è elevata, e però stanno perdendo un mucchio di liquidi per traspirazione insensibile. Come posso capire se la mia idratazione è adeguata oppure è in qualche modo non sufficiente? È un bel tema. Mi dia due indicazioni flash. È un bel tema perché, perché la prima cosa che si tocca è effettivamente, si stavano sfiorando le guance qui, che sono come rose. Rose, ecco. Sono bellissime, le loro non hanno bisogno. Ma certo, sì, sono qua che bevo. Infatti abbiamo qui davanti tutti l'acqua. Esatto, tranne me. Però la secchezza della pelle è un tema importante che si percepisce perfettamente sulle mani immediatamente. Quante persone dicono, ah, devo mettere la crema. Ma prima bevi acqua, poi dopo metti la crema, no? Cioè, sono gli elementi classici da questo punto di vista. E poi credo che serva un'educazione mentale ad andare in giro con il proprio bottiglino, a sapere che quando uno entra in casa darsi degli spunti fissi. Dice, entro in casa, appendo il cappotto e vado a bere un bicchiere d'acqua. Tra l'altro riduce anche la fame, quindi è un dato sicuramente positivo. E abituarsi nel corso della giornata, anziché a prendere caffè in quantità, io che sono uno che ama molto i caffè, ad esempio, spesso comunque interpongo delle tisane, perché sono molto più liquide, sono piacevolissime. Mm-hmm. Per cui continuo a mantenere il mio piacere per il caffè, però inserisco volutamente quel paio di tisane, che sono quasi mezzo litro di tazzona ogni volta, e questo mi porta ad essere idratato volente o nolente, quindi a riuscire a contrastare quelle che sono le situazioni ambientali che portano all'abbassamento. Per cui va fatto, insomma, l'acqua c'è. L'acqua c'è, quante dobbiamo assicurarcene? Il famoso litro e mezzo al giorno, ciascuno di noi si deve regolare, non si deve scendere al di sotto del litro, ci sono dei momenti ideali della giornata, ad esempio al risveglio, altri momenti in cui bere acqua non è consigliato, da sempre circola quella raccomandazione, non bevete durante i pasti perché sennò la pancia gonfia, sono bufale? Oppure c'è qualche cosa di vero, dottor Speciani? Allora, partiamo, così poi andiamo al fegato. Due bellissimi punti. Allora, il primo è che l'acqua ha un'azione potente, ad esempio, di tipo diuretico. Se bevuta a digiuno, quindi un bicchierone d'acqua, eventualmente con un po' di limone, che ha anche alcuni stimoli maggiori un po' sulla colecisti, cerca di farle funzionare, quindi stimola anche il drenaggio, è uno dei più potenti diuretici naturali che esistono. Per cui le persone dicono, mi alzo, bevo acqua e ovviamente poi hanno bisogno di fare più pipì nel corso del tempo, nella mattinata, che è un dato sicuramente positivo, cioè si facilita l'eliminazione di un po' di scorie notturne. E poi devo dire, Il tempo non c'è. Io ricordo quando stavo, quando ero piccolo, stavo studiando per diventare anche istruttore di atletica leggera e c'era... Pensa quante ne ho fatte. Mamma, che vita intensa ed interessante. E ad un certo momento il nostro insegnante, che era stato un olimpionico, e diceva bisogna bere con e respirare con tutto. Avete qualsiasi buco che abbiate, usatelo per bere, per respirare. Ed era carina come espressione, lo stesso dico per l'acqua, nel senso che usiamola, cioè mettiamoci dei punti, beviamo durante il giorno. E questo aiuta anche a depurarci, aiuta. Dottor Speciani. Non c'è un limite. Adesso sono uscite delle polemiche, quelli che dicono sempre 2 litri, no, perché i 2 litri non sono sufficienti. A volte noi medici amiamo fare questo tipo di polemiche. Io sono molto legato al concetto di individualità. Ognuno ha i suoi bisogni ed è bene seguirli. Ecco, però è anche vero che l'acqua non serve a dimagrire, perché è passato anche questo messaggio. Non è che se io mi bevo 4 litri d'acqua faccio tante pipì e divento Naomi Campbell. Quindi purtroppo non fa questo effetto. Però in una persona che sta seguendo uno stile di vita adeguato per rimettere a posto la propria forma fisica, l'acqua aiuta a avere un'azione, diciamo, metabolica. Cioè, significa, ma immaginiamo come fosse un processo produttivo. Se io devo mettere in moto qualcosa che smonti le molecole di grasso, gli acidi grassi vari che sono accumulati, in realtà creo una somma di situazioni come se facessi un po' di turbolenza in un'azienda. Ho bisogno di ripulire, quindi l'acqua serve specificamente. Lava via, a volte anche l'infiammazione. Esatto. 800 24 00 24. Tra poco andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Il dottor Speciani ha suggerito acqua con l'aggiunta di limone, magari al mattino, aiuta anche a depurare. Ma voi ci state già scrivendo che cosa avete fatto e che cosa state facendo in questi giorni per risolvere quelle varie sensazioni che sono di pesantezza, di digestione lenta, che ciascuno di noi avverte dopo aver fatto qualche abbuffata. Allora, diteci quale strategie state utilizzando. Ad esempio, Piero da Vicenza ci scrive che lui ha fatto la cura delle mele, 3 giorni solo a mele, serve a qualcosa. Voi che cosa fate? Bevete le tisane, aggiungete lo zenzero, bevete il brodo vegetale, saltate qualche pasto, usate solo le fibre integrali. Perché ve lo chiedo? Perché subito dopo le informazioni sul traffico ci occuperemo del fegato, di quella sensazione, no, di pesantezza che possiamo avvertire, ma dato che il dottor Speciani ha portato una calza con tanti libri, vogliamo anche metterli a vostra disposizione, quindi suggeriteci le strategie che mettete in atto per sentirvi più leggeri, per stare bene soprattutto. Ecco, mi piace di più stressare questo aspetto, e il dottor Speciani vi distribuirà i suoi libri. A tra poco. Cuore e denari. Me so magnato il fegato e quello che c'è intorno. Amore, amore, amore, amore, amore, amore. Ed eccoci qua, siamo tornati insieme oggi con il dottor Attilio Speciani, allergologo e immunologo clinico a Milano. Stiamo un po' tirando le somme delle feste appena passate, che in alcuni casi ci hanno lasciato qualche chilo in più, anche un po' di sensi di colpa, ma soprattutto hanno messo a dura prova il nostro fegato, che ora si merita un po' di riposo. Parola chiave benessere. Noi iniziamo con correggendo un po' il nostro stile alimentare, e quindi per restituire a tutto il nostro organismo, a partire dal fegato, benessere per affrontare un 2016 in piena vitalità. Intanto vorrei commentare, dottor Speciani, con lei l'SMS di Piero, che ha fatto la cura delle mele, invitando i nostri ascoltatori a raccontarci che cosa stanno facendo, che cosa fanno per stare bene. Dottore. È interessante questo dato, perché una delle azioni depurative che noi abbiamo è proprio quella di fare 1 o 2 giorni, ad esempio, di utilizzo solo di frutta e di verdura. Spesso anche in programmi dietologici complessi hanno proprio questa funzione. Perché? Perché c'è un'acqua interna alla frutta e alla verdura che ha un'azione differente dall'acqua da bere, fondamentalmente. Ci sono sali minerali, ci sono enzimi, soprattutto, che quindi stimolano la digestione, stimolano la ripulizia intestinale e così via. Infatti io, questo è una delle tematiche che viene utilizzata spesso. Ci sono persone, ad esempio, per un lungo tempo è andata di moda la cura dell'ananas, per cui le persone si facevano, dopo che facevano stravizi, in realtà si mangiavano l'ananas. Sì. L'ananas e usavano poi il dolcificante. Esatto. Cioè, dopo, per come se non fosse già abbastanza. Io una delle cose che suggerisco, e che quindi va un po' sulla stessa linea di quello che suggeriva Piero da Vicenza, ad esempio, è di partire al mattino con con dei finocchi tagliati sottili, che hanno un'azione, intanto sono pochissimo calorici, però hanno una ricchezza d'acqua e di fibra contemporanea positiva, con un velo d'olio, un po' di limone, e questa cosa ha proprio un'azione. La gente, come quando si beve molta acqua, ci si accorge che nel corso della mattinata succede qualcosa nell'organismo. Perché c'è un'azione diuretica importante, e una delle cose che viene fatta di più nel periodo natalizio è di mangiare cibi che hanno un altissimo contenuto salino, quindi salumi, insaccati, carni, pane, creche, risotti, grissini, biscotti, arrostoni, pesci affumicati. Abbiamo bisogno di tornare ad una sorta di, chiamiamola, di sapore naturale, quindi non esasperato dalla dolcificazione o dalla salificazione degli alimenti. Quindi si inizia la giornata con la nostra acqua e limone, con un finocchio tagliato sottile, con un non aggiungiamo d'olio. Il sale, perché no, senza sale. Ma un caffettino sì, lì vicino ce lo mettiamo. Certo, ma poi iniziamo, no? E questo poi... è solamente il saluto della cucina, l'antipasto della colazione. E poi caffè. Si inizia. No, il caffè è ottimo. Guarda, certo. Il caffè e il cacao. Il concetto è che se uno pensa al cacao come cioccolata con dolce latte e panna montata, si sbaglia, ma io sono un fautore, ma per fortuna non solo io, anche la scienza sta scoprendo sul caffè, sul cacao, dei valori sicuramente importanti, rilevanti, che possono aiutare le persone a tenere alto il livello di circolazione, facilitare la diuresi, anche questo. Il caffè al mattino, di per sé non zuccherato, ha delle ottime azioni positive, se è un pochettino più lungo. Va bene, io faccio sempre una considerazione strana su caffè, tè e cacao, che sono le bevande sociali più diffuse nel mondo, da sempre, cioè da quando nascono, cioè quando ci sono, e è interessante perché hanno tutte e tre contemporaneamente un certo livello di azione antiallergica e un'azione antinfiammatoria. Quindi, al di là del social, che è piacevole, per cui danno una, indubbiamente da qualche parte l'organismo ha come bisogno di sentirsi un po' più disinfiammato e un po' più stimolato sul piano nervoso. E per rendere meglio il social. Esatto, no? Hanno avuto il loro successo, è motivato. Insomma. Allora, abbiamo Alda che ci chiama da Torino. Sì. Però, Alda, la tengo lì un secondo perché vorrei chiedere al dottor Speciali di commentare i messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Vi ricordo che abbiamo anche WhatsApp. Allora, utilizzo frutta, verdura, fagioli e pesce. Poi spremuta di arancia con un limone, un po' di zenzero, un cucchiaino di miele. Questa è la ricetta di Katia da Bologna. Brava Katia, fantastico. La mia indicazione era sui finocchi prima di aggiungere un po' di pinoli, oppure un pochettino ad esempio di dopo il primo giorno in cui uno magari si mantiene più sulla frutta e verdura, puoi aggiungere petti di pollo simile. Tu usi il pesce, fa fantastico, va bene. Lei sta facendo un'integrazione positiva in cui ha tolto i cibi, come dire, quelli industrializzati, quelli composti, quelli preparati, per cui è una buonissima partenza. Tra poco andiamo alle fibre e poi cercheremo di chiedere al dottor Speciani, perché dato che si stressa molto questo l'utilizzo, no, di cereali integrali, cerchiamo di dare anche le risposte a chi all'invito di consumare più fibra si ferma dicendo a me la fibra mi dà gonfio addominale, dolorini, meteorismo, eccetera. Allora, faccio spesso, dato alla stagione, Bruna da Cuneo, esatto, insalata di carciofi crudi con agrumi, va bene? Io direi che se ne porta un piattino qua, noi la mangiamo. Noi proprio non ci offendiamo affatto. Carciofo! A noi ci piace. No, tra l'altro, prima parlavamo di tisane. La tisana di carciofo, oltre ad essere stagionale, carciofo, cardo, tarassacco, quello meno stagionale perché... arriva un pochettino più tardi, però sono tra gli elementi fondamentali per stimolare questo momento di depurazione. Questo quindi ci stiamo. Però quindi bravissima Bruna di Cuneo, bravissima Katia. E stavamo aspettando un'Alda di Torino. Allora parte. Sì, Alda, e poi si è aggiunto anche Fabiano da Prato. Aggiungetevi, certo. 800 24 00 24. Alda, buongiorno, benvenuta e buon anno. Buona giornata e grazie per avermi convocata. Allora, io cerco di essere sintetica. Io sono un atleta, quindi faccio un'alimentazione molto, sto molto attenta a quello che mangio, seguo una dieta abbastanza stretta, quindi i grassi non ne mangio, ne mangio pochissimi, faccio un'alimentazione molto ricca di fibre, frutta e verdura, le cose che voi sempre ogni giorno consigliate. Soltanto che qualche anno fa ho avuto un incidente. Un dentista mi ha creato uno stellite mascellare per avermi tolto il dente del giudizio. Aia. Dopodiché sono iniziati i miei guai. Ho dovuto assumere antibiotici a cicli e diversi antidolorifici, anche tipo il Doradol. Il che ha significato che io ho una stitichezza cronica e nonostante appunto continuo a mangiare sempre roba abbastanza piena di fibre, quindi molto regolare, il mio intestino non funziona più come ecco prima. Sembra non rispondere più. Grazie Alda per il suo SOS, che sarà sicuramente utile a tanti che dei nostri ascoltatori che hanno un po' l'intestino in panne. Ma sai che è interessante questa cosa, perché essendo una donna attenta anche al suo organismo e si sente da come ne parla, in realtà sta dicendo ad esempio che ha tolto i grassi di torno. Però ci sono grassi e grassi. Ci sono grassi e grassi, ad esempio l'abbondante olio di oliva utilizzato proprio per condire la verdura, per fare anche delle belle preparazioni miste di frutta e di verdura con insalata, sono elementi che hanno il loro effetto anche sull'intestino. Dall'altra parte abbiamo un atleta che sta facendo dell'attività, ad esempio ci sono delle integrazioni come l'integrazione di magnesio che proprio aiuta. Io credo che ogni singolo caso, non possiamo dire che uno ha una immobilità intestinale, ogni singolo caso va sempre visto un po' da tutti i punti di vista, e nel racconto di Alda l'elemento rilevante è come che lei abbia iniziato a selezionare degli alimenti e dei cibi. Certo, c'è stato un evento particolare specifico, però quando noi iniziamo a selezionare anziché cercare di mantenere una varietà globale dell'alimentazione, talvolta qualcosa succede. Allora mi sembra che Alda abbia sottolineato il ricorso ad antibiotici e antidolorifici, sembrava quasi che fosse un po' questo il click, no? Che ha poi ha fatto funzionare in modo non più regolare il suo intestino. Ci può essere una relazione, soprattutto che cosa deve fare Alda, ma che cosa devono fare le persone che nell'ultimo tempo si sono rese conto che l'intestino, per una serie di ragioni magari non note, ha iniziato a perdere la sua regolarità? Sicuramente l'idratazione è importante. Idratazione, l'apporto di magnesio che può essere fatto sia con dei supplements adeguati o anche iniziando a ridurre, perché vanno un po' in contrapposizione, i cibi molto salati. Quindi noi di sale ne parliamo tantissimo in quindi estate. Quindi all'intestino non piacciono gli alimenti troppo salati? All'intestino piacciono un po' meno, perché in realtà tendono a trattenere, a portare l'acqua che dovrebbe stare dentro nella pancia e favorire l'evacuazione, tendono a portarla nei tessuti molli, quindi gambe, caviglie, occhi, sott'occhi e tutto quello che uomini e donne di solito non amano troppo. Riducendo questo, l'acqua torna un pochettino dentro e si consuma meno magnesio. E che il magnesio ad esempio tende a stimolare un pochettino di più la funzione intestinale. E poi quello che abbiamo detto prima, cioè ad esempio l'acqua al mattino, stimolare alcuni spunti in cui ci possa essere davvero uno stimolo all'evacuazione. L'acqua con un po' di limone al mattino ha un'azione di stimolo sulla colecisti, quindi ci sono all'interno della terapia naturale, che non sono necessariamente l'utilizzo di farmaci, si possono proprio andare a stimolare alcune funzioni. Un dato importante ancora è, e così concludiamo il tema di Alda, è che c'è stato un trattamento antibiotico importante per un problema. Questo di solito scombina grandemente il microbioma intestinale. Abbiamo ancora un minutino di tempo. Un minuto, perfetto. Gli antibiotici vanno usati sempre solo sotto consiglio del medico, per il tempo, no? Che il medico prescrive, a rischio, se no c'è una resistenza agli antibiotici, che è un tema molto... Ma lei li ha usati Per cui lei li ha usati con indicazioni. È possibile che nel corso della nostra vita dobbiamo assumere antibiotici. Che cosa dobbiamo prendere per evitare di infiammare e disturbare il microbiota intestinale? È un tema potente, non entriamo adesso nel merito di quali tipi di probiotici, cioè i cosiddetti fermenti lattici, vanno utilizzati, ma vanno utilizzati per un tempo che è quasi di un mese successivo all'assunzione. Allora, 800 24 00 24, Carmelo Lauricella mi dice saluta. Sbraccia. E infatti noi vi salutiamo per lasciare la linea al nostro GR. Tra poco. Cuore e denari. Leon Poto, era tuo amico quello? Io non ho amici. Senti che odore. Sono fagioli con le cipolle. Ah, è vero. Sì, è vero, però sono miei. Iniziamo con un bel piatto di fagioli con le cipolle, dottor Fantastico. Speciani, che dato che stiamo parlando di depurazione, di riprendere, no, il passo, di far funzionare meglio intestino e fegato, ci siamo. Noi abbiamo aperto con fagioli con le cipolle e non abbiamo aperto così a caso, perché un po' di verità c'è in questo piatto. Ma, e tanta c'è, salute sicuro. Cioè, intanto ci aggiungiamo magari un po' di rosmarino e un po' di ginepro, che sono, perché poi ogni leguminosa ha la sua bacca o la sua erba o il suo aroma che da aggiungere, che migliora la digeribilità, che è un bel dato. Cioè, usiamo degli enzimi naturali per farle digerire. Quindi meglio. Per i fagioli il rosmarino? Di solito ci sono il rosmarino per i fagioli e in genere il ginepro, come dire, l'alloro per i ceci, il rosmarino per i fagioli, il timo per le lenticchie e poi ginepro, in genere prezzemolo, chiodo di garofano, possono, a seconda dei gusti e delle tradizioni, possono andare bene abbastanza per tutti, quindi si muovono. Però fagioli con le cipolle, perfetto, buonissimo. Qual è il tema fagiolo? Il tema è che se io inizio oggi, non ho mai mangiato leguminose, inizio a mangiare oggi fagioli o lenticchie, la pancia si gonfia. Deve diventare, noi ragioniamo sul fatto che la fibra, una volta nel paleolitico si mangiavano quasi 100 grammi di fibra al giorno. Le indicazioni dell'OMS oggi sono di mangiarne almeno 25-30 grammi al giorno e la gente mediamente ne mangia 7-8, cioè si fa fatica a far mangiare 10 grammi di fibra perché la gente ha paura che gli gonfi la pancia. Questo avviene per un primissimo periodo. Allora è un investimento. Deborah, diversifichiamo l'alimentazione con un po' di fagioli o di lenticchie, di ceci o di piselli, che sono gli elementi che hanno dentro naturalmente delle quantità di fibra ottima insieme ad un contenuto di proteine vegetali, che almeno bilanciamo anche quelle che poi sono un po' in sovrabbondanza, di solito quelle animali, e facciamo un buon mix. Però vanno gradualmente abituati gli organismi. Cioè, una persona che è abituata a mangiare fagioli o ceci o lenticchie nella propria alimentazione in tante forme, un po' di hummus, ormai l'ho mangiato ieri sera, buonissimo, sono delle cose fantastiche. Io vado pazzo per l'hummus, ne mangerei quintali, poi mi devo fermare giustamente perché è buono come gusto ed ha tutta la ricchezza della fibra, che viene peraltro anche un pochettino cotta, questo la rende anche lievemente più digeribile. Questo è un tema. Fibra cotta o fibra cruda? Bravo. Hola, mi ha tolto le parole da bocca. Come si suol dire. Allora, diciamo che in questo momento invernale la fibra cotta, che è più calda, fa più piacere da un punto di vista pratico. Anche quando si mangia fibra cotta è meglio aggiungere sempre un po' di fibra cruda. Nella persona che vuole perdere un po' di massa grassa e migliorare, meglio la fibra cruda sempre, perché la fibra cotta in realtà viene parzialmente degenerata e quindi cambia un po' la propria struttura. Molti delle sostanze che vengono di solito non assorbite nell'organismo di un vegetale, quando viene cotto vengono invece assorbite, e quindi questo può inficiare un po' il lavoro di dimagrimento che una persona sta cercando di fare. Allora, ripetete per favore gli abbinamenti legume-erbe, le trovate sulla pagina del nostro programma, perché abbiamo anche gli ascoltatori qua, fioccano ospiti, eccolo qua, come un salottino è arrivato. Hai già visto, infatti. Eccolo, allora, chissà che cosa, ma salutiamolo, Nicola Borsi, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. La prima domanda è d'obbligo, la tua colazione di stamattina com'è stata? Depurativa dopo delle vacanze di Bagordi? Sì. Ma vacanze di Bagordi no, anche perché sono state praticamente lavorate tutte. Mm-hmm. Vabbè, la colazione, anche le mie, ma la esatto. colazione... No, la colazione come sempre con caffè latte, fette biscottate, marmellata di arancia amara, che è l'unica che io consumo. Mm-hmm. Anche a me piace molto. E qualche biscotto di quelli senza olio di palma. So che aprirò un capitolo particolarmente. Allora, diciamo che si può fare di più. Le proteine mi mancano all'appello, Nicola. Le proteine? Cercheremo di ovviare. Dai, ti regaliamo un sacchetto di noci. Fabiano da Prato, Lorenzo da Milano, Adele da Brescia. Già dall'anticipazione delle loro domande so che si porteranno a casa il libretto del dottor Speciani, controllare il peso attivando il metabolismo. Questa è già la buona notizia, ma andiamo rapidamente. Fabiano, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e al dottor Speciani. Senti, io sono una colazione un pochino strana la mattina, diciamo, è un anno che la faccio, e mi faccio un estratto di frutta e di verdura tutte le mattine, circa un mezzo litro, e poi vado a fare quei 5 km per mattina a camminare. Io mi trovo non bene, ma benissimo, benone. Certo. Ho abbassato tutti i livelli pressori, ho levato perfino le medicine, insomma, sto da Dio. Sto da Dio, Fabiano! Fantastico, bravo Fabiano. Attivato, in realtà fa in modo di andare a muoversi, a fare attività fisica senza sovraccaricare l'organismo. Fegato non è... va benissimo, un liquido che le stimola la diurne. Il librettino è suo, assolutamente. Lorenza, buongiorno da Milano. Pronto, buongiorno, sono Lorenza. Sì, benvenuta. Io ho bisogno solo di un consiglio dal dottore. Abbiamo conosciuto il sale himalayano un mese fa, soffrivamo di pressione alta, io e il marito. Si è leggermente abbassata, anzi il marito ha ridotto invece che due pillole la sera, una. Addirittura. Però c'è un problema, il sale non si scioglie del tutto, resta sempre un residuo. Il marito che ha un'insufficienza renale, questo può andare male, non essere... Allora, positivo. Lorenza, conquistato dal sale rose himalayano, allora, di cui vanta delle proprietà che al momento non sono state... Colore piacevole, ecco, sale himalayano ha più microelementi all'interno, quindi di solito può aiutare molte funzioni, molte situazioni generali. Dal punto di vista salino è comunque un sale come tutti gli altri, è vero che molte persone che lo usano utilizzano questo o altri sali, anzi oggi noi abbiamo avuto qui degli chef che hanno spiegato che tipo di sale utilizzare per una somma di motivi. Ci siamo divertiti, certo, moltissimo. Noi consigliamo, ricordiamo il sale iodato, però, che no, è ci assolutamente sono, consigliato. Ci sono tutta una serie di situazioni che raccomandano. Devo dire, ad esempio, il sale himalayano è un sale che contiene già molti minerali, tra cui anche lo iodio, in maniera naturale. Per cui va bene, lo può utilizzare, non abbia paura di questi residui che sono solo un segnale di non raffinazione, con tranquillità. Però a pizzica. Sempre poco, vale, non è che perché il sale rosa è simpatico e viene dall'Himalaya, dobbiamo mangiare che non quintali. Passi l'informazione che il sale rosa himalayano fa abbassare la pressione, perché no, siamo proprio fuori strada. Allora, l'hummus è una cremina di ceci, ci chiede hummus, perché l'hummus poi forse anche con l'H davanti, no? Sì, l'H davanti. H-U-M-M-U-S, si trova già preparato anche in alcuni supermercati. Anche nella versione bio. Adele da Brescia, buongiorno. Buongiorno a tutti e vi ringrazio enormemente di avermi richiamato, perché è una vita che desidero parlare con voi due. Eccoci. Con il dottor Pezzani, che mi piace tantissimo. Brava, brava del buon gusto. Io Adele, sì. Brava. No, veramente. Due libricini. Buon gustaglia. Sì, è semplice, anche perché non sono più giovane, nel senso che vi avete fatto regalo il compleanno che sarà fra pochi giorni. Bene. E di conseguenza sono diventano 66, quindi non sono pochi. Allora Adele, prima, perché noi dobbiamo passare alla pagina dei denari, quindi la sua domanda, il suo contributo. Sì, io tutte le mattine quando sono a casa specialmente mi bevo un bicchiere di acqua di limone e non posso fare bagordi perché ho reflusso gastrico e ernia iatale. Più soffro di rosacea, ho tutti i colori e volevo un aiuto dal dottor Speciani anche per questa rosacea, se è un fattore digestivo. Allora, per la rosacea la invito a consultare il nostro archivio, perché ne abbiamo parlato proprio con il dottor Antonino Di Pietro, il professor Antonino Di Pietro, ci sono delle novità e quindi va sul sito e trova tutto. Per acqua e limone, il reflusso, ernia iatale. Per questa serie di cose, quando noi riduciamo l'infiammazione, come abbiamo detto fin dal mattino, dall'inizio di questa trasmissione, e quindi questa azione depurativa di questi giorni, fatta per 3-4 giorni di fila, è un'azione positiva, vedrà che migliorano anche i quadri infiammatori. Per cui, con tranquillità. Prendo sempre, costantemente, l'acqua e limone, un bicchiere non fa non male. Mi dà fastidio, non no. Mi dà fastidio. È un adatto che può prendere tranquillamente al mattino. Non un bicchiere di limone e l'acqua. Cioè, sta parlando di un bicchiere di acqua in cui c'è dentro anche un po' di limone. Ecco, l'acqua bevuta di un mezzo limone. Un dai. Bicchiere d'acqua al giorno, le non la limonata con lo zucchero, con la rinfrescante, con due cubetti di ghiaccio. Ecco, un'altra cosa. Va bene, Giuseppe da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Siamo fuori tempo massimo. Ah, una cosa velocissima, io sto assumendo della crusca quando prendo il latte, due cucchiai di crusca quando prendo il latte e un cucchiaio alla sera quando prendo uno yogurt verso le 10:30. Insomma, si è dato la crusca, Giuseppe, ha fatto bene, ha fatto male, qualche indicazione per lui? Esistono molte forme di fibra naturale, io preferisco mangiare la crusca naturale che c'è nei cereali integrali che mi uso al mattino, però è vero che per chi, come dire, non mangia altre forme di fibra, meglio che niente. Però se uno impara a trovare i cibi che hanno un naturale contenuto di crusca e di fibra, sono tanti, sia quella idrosolubile se quella non idrosolubile, quindi abbiamo citato i carciofi stamattina, ma se no mediamente la banana piuttosto che le prugne piuttosto che altri prodotti di questo genere,